Buongiorno a tutti e bentornati a G-Cookies in questa nuova puntata, l'episodio numero 19. A condurlo ci sarò io, Francesco, da Torino, e ci sono con me due ospiti, una voce già sentita e un'altra voce è completamente nuova e oggi ci parlerà di cose decisamente interessanti. Allora do nuovamente il benvenuto a Giuliano. Ciao a tutti. Grazie per essere con noi e do per la prima volta il benvenuto a Alessandro. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a te per essere stato così disponibile per partecipare a questa puntata. Le puntate scorse abbiamo parlato, come parliamo sovente, di schedine embedded, di dispositivi su cui ci si può mettere le mani a livello hardware e a livello software. Visto che siamo tendenzialmente tutti abbastanza vecchiotti, adesso in questa puntata parleremo di videogiochi, ma non videogiochi delle console, dell'Xbox, della PlayStation 4, ma parleremo di videogiochi degli anni passati, perché con una distribuzione particolare e un Raspberry Pi 3 riusciamo a ottenere una console che può far girare i giochi delle vecchie console. Dico bene, Alessandro? Assolutamente sì. Parliamo di retro gaming, che è quel hobby che hanno i vecchietti come noi di giocare ai giochi vecchi, giochi degli anni 70, degli anni 80, ormai non più in commercio. Soprattutto giochi che i ragazzini di oggi vedono e dicono: ma voi giocavate con queste cose? Sì, infatti più che altro credo che retro gaming sia un po' un'operazione di nostalgia di chi è sugli anta. Penso che le nuove generazioni non solo non siano interessate, ma esperienza personale con mio figlio, sono assolutamente impossibilitati a giocare a giochi che erano complicatissimi, peraltro. È frustrante giocare oggi a molti giochi dell'epoca, per cui credo che rimane una cosa un po' riservata a chi ha qualche anno sulle spalle. Ma tuo figlio quanti anni ha? Ah, mio figlio ha 7 anni, però lo trascino nelle sessioni con me. Ogni tanto prendiamo qualche vecchia macchina, perché oltre alla distribuzione di cui parleremo oggi, in realtà chi fa retro gaming si diverte con le macchine vere dell'epoca, per cui qualche domenica pomeriggio ho visto, insomma, quali sono gli effetti di una nuova generazione, di un nativo digitale davanti a un computer degli anni 80 o a una console degli anni 80, insomma, c'è un po', è passato tanto tempo, ecco, questa è la verità vera. Però su quelle basi si sono poi migliorati i giochi che abbiamo oggi. Diciamo che secondo me il gioco di oggi deve fare quasi la realtà. All'epoca il videogioco era un gioco. Io mi ricordo, ho cominciato con con il NES, penso al gioco delle papere con la pistola. Parliamo del 1986, già comunque eravamo avanti con le piattaforme di retro gaming. Ma io sono del 78, quindi non diciamo che prima ho solo giocato a qualcosina con il Commodore, ma in casa mia di giochi ce n'erano pochi, la faccenda che le cassette non erano così semplici da duplicare, e i giochi comunque come ora costavano cari. Il primo vero gioco che mi ricordo è quello lì. E Giuliano, tu con cos'è che hai cominciato? Qual è il tuo primo gioco che ti ricordi? Io sono un pochino più vecchiotto e il mio primo videogioco è stato il Pac-Man della sala giochi e a casa il VIC-20, dove anche lì c'era Pac-Man e Frogger, quello della rana che saltava sulla strada cercando di evitare i veicoli per andare fino alla casetta dall'altra parte. Ah sì sì, me lo ricordo, se non mi sbaglio c'è una riedizione di un gioco simile su iOS con un pollo che deve saltare, se non erro. Questa del pollo non la so, però all'epoca era anche abbastanza famoso, anche perché era lo stesso un coin-op di quelli da bar, credo si chiamasse Frogger, ma adesso non sono sicurissimo. Sì sì, ti confermo, si chiamava Frogger ed è uno dei primi videogame passato anche in sala giochi. Poi da quello credo di aver saltato a Popeye, quello che era una specie di Donkey Kong con braccio di ferro, una cosa del genere. Bisognava raccogliere i cuori, esatto, lanciati da Olivia. sì, infatti. Beh, comunque vedo che siete ben informati, bene. Io di sala giochi mi ricordo un gioco con una coccinella, se non erro. Ladybug. Sì, quello, e poi Bomberman. Sai, erano molti erano cloni di giochi più rinomati. Ladybug di fatto era una specie di Pac-Man, perché bisognava raccogliere i fiorellini che erano in un labirinto. Aveva la particolarità che c'erano degli elementi mobili all'interno del labirinto e quindi aveva un elemento caratterizzante, però come diceva Giuliano, per esempio Popeye era praticamente Donkey Kong. Molte produzioni, parliamo in quel periodo lì credo già di metà anni 80, quando comunque i videogame da sala giochi cominciavano un po' il loro declino. Se non ricordo male, siamo comunque metà anni 80. Ad ogni modo, il retro gaming, almeno ognuno lo vive a modo suo, però per me, diciamo, è anche un po' il recupero della memoria storica. Non è che abbiano inventato poi tantissime cose da allora. Capire da dove vengono certi titoli, certe dinamiche di giochi, fa bene anche a chi progetta oggi i videogame. Per cui un po' di storia dell'informatica credo che non faccia male a nessuno, insomma. Sono assolutamente d'accordo. Direi che ti vedo molto, molto ferrato su questa cosa. Vuoi farci un rapido excursus storico? Visto che in scaletta hai messo un sacco di appunti da questo punto di vista. Ma perché sono vecchietto e non volevo dimenticarmi nulla, più che altro è quello il motivo. E hai fatto benissimo, perché comunque noi parliamo sempre, no, ma ci diciamo questo durante la puntata, non ce lo scriviamo, e a fine puntata ci dimentichiamo due cose su tre, quindi direi che hai fatto benissimo. Ti lascio la palla per una introduzione storica, poi se mi viene in mente qualche domanda, dubbio, ovviamente ti interrompo, e la stessa cosa vale per Giuliano, va bene? Grazie, molto rapidamente, perché poi raccontare un po' la storia delle piattaforme da gioco è una cosa lunghissima. Però considerate che la prima console domestica del 1972, e la prima generazione delle console, che va più o meno dal 72 al 77, aveva il Pong, se vi ricordate, che era quel ping pong fatto con le due stecchette che si muovevano sul monitor, e si poteva giocare soltanto in due, bisognava avere un amico, e si attaccava questa console al televisore, che in realtà era più analogica che digitale, perché sembrava una specie di oscillatore, no? La tecnologia era quella. E sai che il Pong è a New York all'interno di uno dei musei più famosi? Non so se del MoMA, comunque c'è una parte con i videogiochi e c'è Pong. Sì, assolutamente, è stato l'inizio di tutto. L'Odyssey, che era questa piattaforma che poi veniva prodotta da molte aziende, aveva soltanto quel gioco all'interno, era un chip, sostanzialmente non c'erano le console programmabili, e quello è stato il primo. È stato venduto anche per molti anni successivi, soprattutto in Europa, dove le cose sono arrivate un pochino più tardi, e quindi diciamo la console arrivano piuttosto da lontano. Poi c'è stata la seconda generazione delle console, quelle vere, che avevano le cartucce, per intenderci, erano console già programmabili, e qui, a parte il Fairchild, che è la prima console poco distribuita, che ora è gettonatissima dai collezionisti, abbiamo l'Atari 2006, che è quello che ha inventato il concetto del joystick, sostanzialmente, oppure il Mattel Intellivision, che è stata la mia prima console, peraltro, e il ColecoVision. Sono arrivate in quegli anni lì, più o meno fino ai primi anni 80, una quantità di console programmabili con cartuccia che hanno tra l'altro messo in crisi il mercato. Nel 1983, più che altro, a un certo punto non si parlava più nemmeno di videogame, c'era stata una tale saturazione del mercato, e una, come dire, erano stati prodotti talmente tanti giochi che poi non erano riusciti a rispettare le aspettative, che il mercato andò in crisi. La seconda generazione con l'Atari 2006 è ricordato come la generazione di console che ha distrutto il mercato dei videogame. Se siete curiosi, c'è un bellissimo documentario su Netflix che racconta la storia dell'Atari e racconta la storia di un videogame che è uscito in contemporanea con il film E.T. Questo videogame, che è stato prodotto in una quantità industriale di copie, non ha venduto, era un gioco difficilissimo, era assolutamente fuori standard, e tutti hanno dato la colpa del fallimento di Atari e del fallimento dell'industria dei videogame al gioco E.T. In realtà sì, gran parte della responsabilità forse era di questo gioco particolare, però di fatto già negli anni 80 questo mercato era difficile, era un mercato quasi destinato a chiudere. Ti confermo che il documentario è interessantissimo, è uno dei primi che ho visto su Netflix. Tra l'altro è un documentario che, oltre alla storia di questo gioco, ti racconta proprio la storia dei videogiochi di quel periodo lì, ed è un pezzo della storia dell'informatica, quindi è interessante ed è consigliato anche a chi non è molto patito di videogiochi, ma è un pezzo di storia su cui si basa l'informatica oggi. In quel periodo sono nati giochi come Pac-Man, come Donkey Kong, come Space Invaders, che oltre a essere in sala giochi o al bar erano anche a casa. Quello è stato un periodo veramente ricchissimo. I creativi dei videogame hanno prodotto tantissimo materiale. Wozniak della Apple era per esempio uno di quelli che lavorava per l'Atari e che sviluppava videogame. Tenete conto che in quel periodo hanno cominciato ad affacciarsi i primi a un computer, perché di fatto il Commodore 64 è del 1982, quindi molti stavano dirottando sul computer. Tornando alle console, poi c'è stata una terza generazione, che sono le console dopo la crisi. Per esempio c'era il NES, che ho capito che forse qualcuno di voi ci ha giocato, il Sega Master System, ci sono giochi come Super Mario, come Final Fantasy, non lo so, Metal Gear, sono tutti giochi che sono nati dopo il 1983. Poi c'è la quarta generazione, che è quella delle console a 16-bit, il Super Nintendo per esempio, il Game Boy, fino ad arrivare alla quinta, che dal mio punto di vista è l'ultima generazione per cui si può parlare di retro gaming, che è quella a 32-bit, dove c'è la PlayStation. Quando è arrivata la PlayStation ha rivoluzionato il mercato. Questo è praticamente tutto un periodo di tempo che va dal 1972 al 1993. È tutta roba sostanzialmente che sta o nei musei o in qualche vecchio negozio, cose che si trovano in cantina. E poi si sono sovrapposti i computer, c'è lo ZX Spectrum Sinclair, il Commodore VIC-20, il Commodore 64, alcune macchine della Apple, anche se in Italia non è che siano arrivate tantissime. E io sfido chiunque a dirmi che con un Amiga o piuttosto che in un Commodore 64 passava più tempo a lavorare che a giocare. No, cioè sul Commodore io ho sempre solo visto un sacco di amici che giocavano, sempre. Sì, credo che il Commodore 64 insieme all'Amiga siano le due piattaforme che hanno il maggior numero di titoli come videogame della storia dell'informatica. Hanno portato, soprattutto su Amiga, un po' tutto quello che si vedeva al bar. Poi erano comunque delle macchine che avevano delle caratteristiche abbastanza spinte per l'epoca. Costavano, perché comprare un Commodore piuttosto che un'Amiga è l'equivalente di spendere 1.000-1.500 euro adesso. La legislazione era un pochino diversa all'epoca sulle copie, eccetera. Si compravano le copie in edicola. C'era diciamo una brutta prassi. In Italia c'era una legge, adesso io non saprei raccontarvi nei dettagli, per cui era possibile portare in edicola con un fascicolo di due pagine, quindi sotto forma di periodico cartaceo, delle cassette. In queste cassette c'erano i giochi originali a cui erano stati cambiati i nomi, e magari venivano spezzati in più livelli, perché uno comprava una cassetta in edicola e si ritrovava magari il terzo livello di Prince of Persia, adesso non ricordo il nome in italiano, venivano localizzati spesso, però non c'era di fatto ancora la sensibilità o il rispetto della del copyright, piuttosto che del fatto che tu stavi prendendo un gioco che aveva una sua unità e che quindi doveva essere giocato per intero in un certo modo. Tra l'altro i distributori in Italia erano quasi inesistenti, non è che andavi in un negozio a comprarti il videogame, questo è arrivato dopo. Il problema è che questa prassi, questa brutta prassi, ha un po' rovinato la cultura dell'informatica in generale in Italia. Sembrava assolutamente legittimo andare in edicola a comprarsi un gioco piratato, e per cui anche da questo punto di vista ci ha un po' arretrato rispetto alle altre nazioni, Germania e Inghilterra prima di tutto. Ma questo è un discorso complicato, per cui... Sì, sì, ma diciamo che lo conosco bene, anche perché confesso di essere stato un commesso in un negozio di videogiochi tra gli ultimi anni 90, cioè tra i primi anni 90 e la metà degli anni 90, quindi... Ho visto anche tutta l'escalation poi del fatto che quando sono arrivate le cassette fosse un pochino più complicato se non impossibile la copia, quindi lì c'è stato un po' un ritorno all'acquisto dell'originale. Poi siamo passati ai CD, dove invece poi si è tornati alla stessa tipologia di non acquisto, insomma. Sì, diciamo che la parte di pirateria sul videogioco c'è sempre stata. Se non erro, davvero l'unico modo per non avere copia, da che mi ricordo io, era quello delle cartucce. Le cartucce fondamentalmente erano molto difficili da duplicare. È uscita poi la cosa delle ROM per il Nintendo DS, se non erro. Stiamo andando solo un pochino fuori tema, però poi in effetti... Se io penso alla PlayStation, alla prima, e agli altri che sono usciti con lei, vediamo un attimo, aspetta che torno dietro, aiuto, la PlayStation, la PlayStation poi era insieme col Saturn che aveva Saturn che aveva quel CD piccolo, si era tornati a un supporto copiabile che era ottico, ma la PlayStation aveva sti dischi neri, ma li copiavano tutti. Sì. Se non erro. Sì, sbaglio. Sì, assolutamente sì, ma è un fenomeno tutto italiano. Purtroppo noi ci contraddistinguiamo per la scorciatoia, perché comunque c'erano molti sviluppatori italiani. Se avessimo alimentato il mercato non soltanto dei videogame, ma dell'informatica in generale, probabilmente non saremmo oggi così indietro rispetto al resto d'Europa. Ci sono grandissime case di produzione di videogame, molte sono francesi, alcune sono russe, ce ne sono molte anche in Germania che producono dei giochi a AAA, quindi comunque bestseller a livello globale. Vabbè, abbiamo perso un'occasione qualche anno fa. Io ho iniziato a fare informatica in quel periodo lì perché speravo di poterci fare un lavoro. In realtà poi il lavoro è arrivato, ma per altre cose. La nostra generazione è arrivata un po' tardi rispetto al resto del resto del mondo. Comunque sta diventando triste questa. No. Tiriamola su. Allora, abbiamo parlato un po' della storia dei videogiochi e abbiamo nominato dei giochi che penso che tutti quanti conoscano. E adesso la cosa bella è che questi giochi siamo riusciti a farli tornare su piattaforme tutto sommato disponibili, perché io, Alessandro, ho visto la foto del tuo antro e tu hai una discreta raccolta di console, se non vado errato. Sì, diciamo che ho un po' di macchine che sto cercando di raccogliere in giro per la rete, prevalentemente per mercatini, e sto cercando di rimettere in funzione. A parte il mio primo Intellivision, di cui sono orgogliosissimo perché è una macchina incredibile, poi ho un Atari 2006, un NES, un Master System, ho un po' di PC sparsi dal Commodore 64 in giù, più o meno, passando per lo Spectrum, per lo ZX Spectrum Plus, ne ho un po'. Perché poi c'è da dire che il vero retro gamer, anche per la cosa che si diceva prima, quella di riscoprire le vecchie glorie, di riportarle funzionanti, dovrebbe andare in giro per i mercatini, andare a prendere queste macchine e rimetterle insieme. Oggi è molto più facile rispetto a qualche anno fa, un po' perché c'è internet che ci dà una mano, ma perché molti appassionati hanno prodotto dei componenti che facilita molto la vita. Cioè tu oggi puoi permetterti di giocare col Commodore 64 con la macchina originale pur non avendo le cassette. Per esempio è possibile acquistare una periferica in grado di far leggere una compa flash, e in una compa flash da 8 giga c'è praticamente tutta la produzione videoludica di un Commodore 64. Stessa cosa per l'Amiga, ci sono dei componenti che vanno a sostituire il floppy disk interno. Poi magari mettiamo un po' di link per chi ci sta ascoltando, però esistono dei componenti che ti permettono di recuperare le macchine, e quella dovrebbe essere l'operazione principale. È ovvio che diventa più semplice nel momento in cui si comprano delle macchine che sono già pronte, che non hanno niente a che vedere con la macchina originale e che sono già pronte per giocare. In questo periodo c'è un po' una riscoperta del retro gaming. Per esempio c'è un'azienda che si chiama Atti Games, che ha acquisito i diritti per esempio per l'Intellivision, che produce oggi una console che si chiama Intellivision Flashback, ma c'è anche un Atari Flashback o una ColecoVision Flashback, che sono sostanzialmente delle console intorno ai 60 euro, che si trovano anche su Amazon e anche abbastanza facilmente, e che hanno all'interno le ROM dei videogame con un hardware che assomiglia a quello dell'originale, ma che ha i controller perfettamente originali. Se voi guardate per esempio l'Intellivision Flashback, è impossibile distinguere i controller di quella console, che erano molto particolari, da quelli originali. L'elettronica che c'è dentro è leggermente diversa, ma all'interno di questa console ci sono già 100 giochi, 100 titoli built-in, per cui è sufficiente collegarlo al televisore con i cavi coassiali audio e video, e si gioca esattamente nello stesso modo in cui si giocava 40 anni fa o 30 anni fa. Si rende più facile l'accesso ai giochi, cercando in qualche modo di permettere un po', ridare l'esperienza utente, diciamo così, l'esperienza del giocatore un po' come quella dell'epoca, perché si utilizza lo stesso controller, gioca lo stesso, ma senza le complicazioni di dover andare a pescare una vecchia console, rimetterla in funzione, magari ripararla, che è una cosa effettivamente più complicata. Di aziende così, che stanno riproponendo delle console che si collega plug and play, sostanzialmente ce ne sono tante. Ce n'è una carina, per esempio, che si chiama C64 Direct to TV, che praticamente è un joystick. Non so se vi ricordate quel joystick con i pulsantoni rossi, che si chiama Competition Pro. Sì, sì, io lo ricordo, sì, sicuramente. Sì. Solo che hanno messo... Ho appena visto le immagini, bellissimo. Voi immaginatevi questo joystick un pochino più cicciotto del joystick originale, con l'unica differenza che all'interno c'è un Commodore 64. Voi collegate questo joystick al vostro televisore o un modem e avete all'interno 30 giochi, alcuni tra i giochi storici del Commodore 64. C'è un'altra azienda, per esempio, che si chiama X-Arcade, che è un'azienda americana, che invece vi vende il coin-op. Un coin-op grande, come quello che si trovavano nelle sale giochi, all'interno del quale ci possono essere sia i classici del coin-op, del Neo Geo per intenderci, sia per esempio dei giochi di alcune console casalinghe. Su Kickstarter, se fate un giro e fate una ricerca sul retro gaming, trovate un po' di tutto. Ad oggi c'è, per esempio, una cosa che si chiama Amiga Retro Game Console, che sostanzialmente è un lettore floppy, un po' come quello vecchio del Commodore 64, sembrava un mattone. E questo lettore floppy, in realtà, all'interno c'è l'elettronica dell'Amiga, per cui uno può esattamente rigiocare con gli stessi floppy dell'epoca e con gli stessi titoli dell'epoca senza nessuno sforzo. I retro game puristi storcono il naso, però effettivamente se uno vuole rivivere l'esperienza di qualche anno fa senza nessun tipo di difficoltà, sul mercato si trova di tutto e di più. Sì, bisogna anche dire che se tu prendi una vecchia console, la vecchia console usciva con un segnale video che i televisori nuovi certe volte fanno un po' difficoltà a gestire. Assolutamente sì, perché si usciva in RF, quindi si collegava l'output video all'ingresso dell'antenna con il cavo coassiale e poi dovevi fare la sintonia. E poi bisognava fare la sintonia. Esattamente. Ma ora con il televisore che ha il digitale terrestre, quel segnale lì non lo becchi mai più. Per fortuna alcuni televisori non di ultimissima generazione hanno ancora la possibilità di andare sull'analogico, quindi andare sull'RF. Esistono però dei componenti, per esempio uno si chiama InDivision, che praticamente permette di convertire l'output grafico, per esempio di un'Amiga o di un'altra console più vecchia, in maniera tale da poter collegare dei monitor VGA. Esistono quindi queste componenti. Bisogna fare un piccolo lavorino, diciamo, di saldatura, piuttosto qualche collegamento in più. Oggi considerate che anche andare a recuperare un floppy drive dell'Amiga non è compatibile con un floppy drive del PC che si trova ancora in commercio nuovo. È necessario fare delle operazioni. Esiste un sito, per esempio, adesso mi sta sfuggendo il nome, però questo sito qui ha un catalogo raccolto un po' da tanti fornitori in tutto il mondo, con cui è possibile che vi permette di acquistare dei componenti in grado di sostituire quelli veramente obsoleti, quelli che oggi sarebbero incompatibili, dalle porte per i joystick fino alle uscite video, dai floppy disk fino addirittura ad alcuni tipi di tastiere. Molti appassionati prendono delle vecchie console, le riammodernano e recuperano quello che c'è da recuperare pur di poterle utilizzare. Tra l'altro fa quasi senso il pensare che è una cosa che si è vista anche negli ultimi anni. E, non so se vi ricordate la dimensione della prima PlayStation. Quando è uscita la PlayStation 2, la prima PlayStation era dentro in un chip. Quindi ora tutto quello che è un'elettronica che è simile a quella che c'era prima è talmente più piccola che si può mettere praticamente ovunque. Infatti c'è un altro progetto per un Commodore 64, si chiama C64 Reloaded, poi magari vi mando il link per metterlo nelle note dell'episodio. È un progetto di una scheda madre, costa circa $160. Questa scheda madre praticamente entra fisicamente nel Commodore 64, allo stesso form factor, alla stessa elettronica, però ha un consumo che è 10 volte inferiore e ha tutta una serie di ottimizzazioni. Se uno ha un vecchio Commodore 64 con la tastiera funzionante, il case funzionante, può prendere questa scheda, sostituirla alla scheda originale e alla fine ha un Commodore 64, perché bene o male l'elettronica è la solita, non è il Commodore originale ovviamente, però riesce a sfruttarlo con un normale moderno televisore, con consumi assolutamente ridotti e performance ridottissime, perché tra l'altro è possibile collegare anche dei joystick USB. Di gente che si diverte con queste cose ce ne sono tanti. E se no non ci sarebbe questo mercato, cioè il fatto che tu riesca a trovare abbastanza facilmente i componenti, i pezzi, le cose simili, significa che gente che gira ce n'è. Assolutamente, ma ci sono anche delle cose divertenti. Per esempio, uno degli esperimenti che conto di fare prossimamente, purtroppo mi manca sempre il tempo, è quello di convertire le ROM, quindi praticamente il software che contiene il videogioco, in WAVE, in file audio. Se vi ricordate, quando c'erano le cassette e bisognava caricare un gioco, bisognava inserire la cassetta in un registratore audio e quello che il computer reggeva era il segnale sonoro. Sì, giusto, è vero. Questa cosa adesso si può fare collegando, per esempio, a uno ZX Spectrum piuttosto che a un MSX, invece che un registratore, un lettore MP3. Bellissimo. Quindi uno può recuperare le proprie vecchie cassette, le può sostanzialmente digitalizzare e può far digerire i file così digitalizzati alla console originale bypassando il registratore. Con un cavetto mono semplicissimo si collega il lettore MP3 sull'uscita, diciamo sull'output del jack delle cuffie, all'ingresso dell'MSX piuttosto che lo ZX Spectrum Sinclair. queste macchine non si accorgono della differenza, non si accorgono di non avere un registratore, di non avere una cassetta, e funzionano perfettamente. Esistono tre software, di cui uno prodotto da Google, se non ricordo male, che si chiama Otla, O-T-L-A, che è open source e vi permette per esempio di fare queste conversioni. Mi ricordo le maledizioni mentre caricavi la cassetta del Commodore 64 e cercavi di registrare la testina dal buchetto del registratore col cacciavite per fargliela leggere, un disastro ogni volta. Sì, bisognava allineare l'azimut, se sì, vi ricordate. Sì, esatto. Tutta roba che ora con l'App Store scarico il gioco, mi tiro giù questi 3-4 giga e gioco, finito. Cioè, Steam ha cambiato tutto. Sì, ma infatti il retro gaming è per gli appassionati prima di tutto, ma per coloro che hanno vissuto queste cose molti anni prima e vogliono un po' riviverle. Tra l'altro vi dico anche molta sincerità che rifare certe cose oggi toglie un po' della poesia che si è accumulata nel corso degli anni, eh? Andare a rivedere dei giochi oggi a distanza di 30-40 anni tu te li immaginavi come qualcosa di incredibile perché ci hai passato le settimane, vai a vederlo oggi, diciamo, un po' la magia si infrange, perché ci sono delle cose che effettivamente tu ti chiedi: ma come ho fatto io a essere rapito magari da un gioco che aveva 4 pixel in due colori e che sembrava in realtà girare in un mondo fantastico che era tutto nella tua testa. Ma, guarda, ma perché ora c'è l'abitudine a vedere questi giochi che sono praticamente realtà, e all'epoca era una cosa fuori dal mondo, come per noi oggi è fuori dal mondo il fatto di mettersi gli occhialini 3D e vedere questo mondo in tre dimensioni. Secondo me sì, oggi è molto più immersivo. No, ma il fatto è che l'immersione di oggi è quella cosa che ti fa fare oh. All'epoca il fatto di avere un pixel che doveva una pallina a forma di quadrato che rimbalzava su due barrette era comunque un oh, perché non c'erano altre cose simili, era la novità. Ora, se tu vedi quelle cose lì, o ti piace la meccanica di gioco che non esiste più, perché moltissime meccaniche di gioco con le console sono abbastanza sparite. Io mi immagino una meccanica tipo Pac-Man non venderebbe più. No, assolutamente no. E quindi il fatto che nel momento storico il videogioco fatto in un certo modo lasciava molte più persone contente, perché era una roba totalmente nuova. Ora, in effetti, se tu giochi a questi giochi che erano tra l'altro difficilissimi, e dopo un po' ti scocci pure. Sì, oggi è impossibile. Io ho provato nel pochissimo tempo che ho a disposizione, ma è veramente frustrante. Senza andare a scomodare i titoli che sono famosi per essere difficili. Non so se vi ricordate Ghosts and Goblins, per esempio. Ghost and Goblins è un incubo, ma già solo che ci sono i morti, ma il fatto di sopravvivere per più di tre schemi senza tirar giù qualche santo è impossibile. Di quel genere di giochi purtroppo ce ne sono tantissimi, per cui alla fine uno ci rinuncia. Devo dire che ci sono oggi dei titoli che reggono, per esempio i giochi del calcio, Micro Pro Soccer, piuttosto che non so, qualche picchiaduro, non so se vi ricordate, per il Commodore 64 l'International Karate, mi pare, no? Che si chiamasse. Oggi tengono ancora, ho visto che comunque sono giochi che a distanza di tanto tempo hanno ancora il loro appeal, funzionano bene perché comunque erano costruiti bene, erano anche piuttosto innovativi. Ma per il resto oggi effettivamente più il gusto di rimettere in funzione o di rivedere certi titoli che realmente di giocarci. Ti pongo una domanda, ma se tu compri una console in un mercatino e questa non si accende, come fai a trovare i componenti da sostituire sul mercato di oggi? C'è anche il mercato dei componenti di ricambio per le singole console? Assolutamente sì, soprattutto per i computer, oltre che per le console è più facile. Se dovesse capitare a chiunque di trovare uno Spectrum piuttosto che una macchina della Commodore, anche su eBay facilmente si trovano i componenti. I componenti che si guastano poi alla fine sono più o meno sempre quelli: il chip sonoro e il microprocessore e cose del genere. Uno va a tentativi e poi alla fine, sostituendo questo, sostituendo quello, più o meno ci riesce. Poi chi è più esperto di me è in grado di fare delle vere e proprie riparazioni. Sono delle schede abbastanza semplici per l'epoca, diciamo, non sono i circuiti integrati complessissimi di oggi, sono riparabili. Oggi una scheda madre piuttosto che un microprocessore lo butti via, scusate, una scheda madre, diciamo. All'epoca ancora si poteva sostituire facilmente un condensatore piuttosto che qualche altro componente. Il problema è che in questo periodo tutti questi oggetti costano tantissimo. Negli ultimi 4-5 anni i prezzi sono più che raddoppiati. E, anzi, uno in realtà compra oggi più diciamo oggetti che non sono stati testati che oggetti che sono dichiarati funzionanti, perché un oggetto dichiarato funzionante, magari con la sua scatola, può costare diverse centinaia di euro, molto più di una console di nuova generazione. Vi faccio un esempio: la macchina più diffusa in Italia, che è il Commodore 64, nelle varie versioni, se uno la trova un Commodore 64 funzionante con il floppy disk, le scatole e la cassetta, raggiunge facilmente i 600 euro. Prezzi davvero alti. Sono prezzi davvero alti. 4-5 anni fa, quando io ho iniziato a raccogliere un pochino di macchine, era molto più semplice. Infatti io consiglio a chi ha voglia di cimentarsi, di spendere poco, di comprare le cose che non sono state testate, perché uno potrebbe avere delle belle sorprese. Magari comprarne anche più di una, quindi due copie dello ZX piuttosto due copie dell'Atari 2006, e poi cercare di farne una funzionante. Sono facili da smontare, sono facili da riassemblare ed è spesso anche abbastanza facile, a meno che non si tratti dei circuiti, dei chip, dei singoli chip, andare a capire cos'è che si è guastato. Il mercato è diventato davvero complicato. Io ne ho riparati parecchi di Commodore 64, devo dire la verità, e in effetti quello che si guastava era sempre le stesse cose, più o meno le RAM soprattutto, quelle veramente si guastavano tantissimo. Avevo anche tutti gli schemi e 4-5 anni fa ho regalato veramente tantissimi componenti e anche 3 o 4 macchine, forse non testate. Ne ho ottenuto un VIC-20 e un Commodore 64, basta, non ho altro. Beh, diciamo che se uno riesce a girare tra i mercatini, andare in qualche svuota cantine, andare a chiedere anche a qualche nostro coetaneo, diciamo nostro perché così mi sento in compagnia, che sicuramente ha in cantina qualcosa, è la cosa migliore. Diciamo che si risparmia e spesso si ottengono delle cose in buone condizioni. Andare su eBay, andare a cercare di comprare qualcosa, oggi la maggior parte di questi oggetti sono venduti da professionisti che fanno non soltanto dei prezzi molto alti, ma ci speculano parecchio, perché la nostra generazione, nel momento in cui ha avuto il potere d'acquisto, perché siamo diventati più adulti, abbiamo magari avuto un lavoro nel frattempo, e i prezzi sono cresciuti insieme a noi. Certo. E quindi adesso direi che possiamo passare a quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo, che è una specie di rivoluzione in questo mondo. Da quando sono uscite le schedine Raspberry è successo che è nata una distribuzione per queste cose. Sì, Raspberry, che di fatto più che una schedina per l'embedded sembra un vero e proprio computer, anzi diciamo più avanti nelle distribuzioni e più sembra un microcomputer completo, è perfetto per poter realizzare degli emulatori. Di fatto gli emulatori sono quel software che permettono di interpretare e quindi far funzionare i vecchi giochi come se fossero sulla piattaforma originale. Di emulatori ce ne sono tantissimi per tutte le piattaforme, da Windows a Mac, però stanno nascendo delle distribuzioni che permettono di raggruppare tutti questi emulatori in unica piattaforma, trasformando il Raspberry di fatto in una console che di volta in volta si trasforma nell'Atari 2006 piuttosto che in un Apple II, piuttosto che in un Commodore 64. Con il vantaggio di essere piccola, bassissimo consumo, facilmente manutenibile, e quindi sta avendo un sacco di successo. Ce ne sono tante di queste distribuzioni. E direi che costa poco anche, eh? E direi che soprattutto costa poco, perché alla fine per poter fare tutto il necessario basta un Raspberry Pi, va benissimo anche la versione 2. Ovviamente la versione 3, che è uscita da poco, va ancora meglio. Avevo sentito che tipo con RetroPie c'è qualche cosa che non va su qualche periferica, se non mi sbaglio. C'è ancora un po' di incompatibilità perché hanno variato alcune parti hardware. Sì, e infatti la comunità sta cercando di correre a ripari, perché il Raspberry Pi 3 è uscito da poche settimane. Mentre la mia esperienza personale sia sul Raspberry Pi Model B, diciamo l'1, che il Raspberry Pi 2, la distribuzione funziona perfettamente. La distribuzione è la RetroPie, che si trova facilmente anche su GitHub, che non ha fatto altro che riorganizzare un software che si chiama Emulation Station. Emulation Station è un ambiente grafico molto carino, peraltro, che contiene tutti gli emulatori e che fa in qualche modo da starter ai singoli emulatori. Quindi voi immaginatevi una specie di home page, una partenza di questa applicazione in cui sono elencati tutti gli emulatori, oggi credo che siano una trentina. Basta cliccare il pulsante del joystick, non parte l'emulatore, c'è l'elenco dei giochi, si seleziona il gioco e si gioca. Questo vale per una trentina di emulatori che vanno dal Game Boy all'MSX, al PC, fino addirittura alla Virtual Machine SCAM, che è la Virtual Machine che di fatto serve per far funzionare le avventure punta e clicca della LucasArts. Day of the Tentacle, The Maniac Mansion e compagnia bella. Perfetto, per cui su questo su questa piattaforma è possibile emulare veramente di tutto, il Neo Geo, l'Apple Macintosh, il Commodore 64, l'Amstrad CPC, ce n'è di tutto e di più tra console e un computer dell'epoca, con una facilità che è disarmante. E soprattutto non hai nessun tipo di problema tipo per l'uscita video, c'è l'HDMI, l'attacchi al televisore e questa funziona, e qualunque televisore moderno ha l'HDMI. Assolutamente sì, gli ingredienti sono semplicissimi, perché serve un Raspberry Pi, il suo alimentatore o un alimentatore equivalente, quelli mini o micro USB. Per la prima installazione è consigliata una tastiera, però in realtà è molto utile se si vuole emulare qualche home computer, perché ovviamente l'home computer ha una tastiera. Esistono delle bellissime tastiere USB. Bluetooth, scusatemi, delle tastiere Bluetooth molto compatte, che hanno anche del touch, una parte touch, che sono comode per esempio per essere utilizzate in salotto. E poi ovviamente ci vuole un joypad. Di joypad ce ne sono tanti, ci sono delle riedizioni di joypad storici. Io personalmente ne uso alcuni che sono rifacimenti dei joypad dei Super NES o dei NES. E quindi con un costo che si aggira intorno ai 50-60 euro si può avere una console con circa una quarantina di piattaforme emulate. Beh, alla fine poca spesa e tantissima resa. Sì, è una cosa semplicissima, perché si va sul sito di RetroPie, si scarica una ISO, è basata su Raspbian, che è il sistema operativo di Raspberry Pi, e la si flasha su una micro SD o su una SD, dipende dalla versione del Raspberry che voi acquistate, si fa partire e di fatto si è già pronti a giocare o a emulare, perché nelle ultime versioni di RetroPie c'è un supporto per la configurazione molto semplice del joypad, e soprattutto vengono utilizzati molti emulatori che si basano su delle librerie che si chiamano RetroArch o RetroArch. Sono librerie che mettono a fattor comune per esempio la gestione del joystick o del joypad, la gestione dell'audio, del video, per cui di fatto una prima configurazione fatta a monte all'interno della piattaforma di RetroPie di Emulation Station ve la ritrovate buona per tutti gli emulatori. Considerate che questa è una novità abbastanza importante, perché la cosa fastidiosa degli emulatori è che sono tutti uno diverso dall'altro. Per cui una volta tu potevi tranquillamente scaricarti quell'emulatore, ma quell'emulatore aveva il proprio file di configurazione, dovevi avere la calibrazione del joystick apposta per quell'emulatore lì, aveva le sue peculiarità per quanto riguarda l'uscita audio, l'uscita video. Invece adesso è stato tutto normalizzato, è stato messo a fattor comune, per cui è veramente semplice. Sotto ci sono ancora gli emulatori originali, quelli, diciamo, maggior parte in alcuni casi sono open source. Però questi ragazzi di RetroPie hanno praticamente semplificato la vita al massimo. Considerate, io quando ho iniziato a occuparmi di RetroPie, che ho anche scritto una piccola guida, era tutto da linea di comando. Nel senso che tu scaricavi la ISO e poi te la dovevi configurare tutta via SSH per far funzionare il sistema? Assolutamente sì, emulatore per emulatore. Cioè aveva un sacco di file di configurazione, aveva tutta una serie di cose complicate che permettevano di rendere compatibile anche l'uscita video. Adesso è stato tutto superato. Nell'ultime versioni, nelle versioni delle ultime settimane, sono stati fatti degli enormi passi avanti. Oggi la comunità di RetroPie, che tra parentesi non è l'unica distro che fa questa cosa qui, ce ne sono altre, poi magari le posso anche nominare, però la comunità che sta dietro a RetroPie è cresciuta, è open source, trovate i sorgenti su GitHub, si può contribuire, però è diventato talmente plug and play che io personalmente a Natale dell'anno scorso ho regalato 4 piattaforme RetroPie anche a persone che non masticano di informatica, non masticano di Raspberry, non masticano di Linux. Ah, cioè tu gli hai fatto il pacchettino con la ISO dentro già nella SD e i controller, e loro l'hanno attaccato e hanno giocato, finito. Sì, loro non hanno idea che dietro c'è un microcomputer, che c'è tutto un lavoro di configurazione, semplicemente si sono ritrovati una console da attaccare al televisore e con cui giocare. Considerate che esistono anche in commercio dei case per Raspberry a forma delle console dell'epoca. Li ho visti, sono bellissimi. Tra l'altro ci sono anche i disegni per stamparlo. Cioè tu se hai qualcuno che fa le stampe in 3D, scarichi i progetti CAD, glieli porti e ti stampano la confezione. Assolutamente sì, ce ne sono alcune veramente simpatiche. Io poi nei regali che ho fatto, ovviamente ho attivato meglio gli emulatori che sapevano sarebbero interessati, però comunque potenzialmente tutti e 40 gli emulatori possono essere installati perché sono già disponibili. Si va praticamente per l'emulatore più vecchio, che credo che sia quello dello Zork, non mi ricordo come si chiamava, la Z-Machine della Infocom se non sbaglio, che aveva l'avventura testuale Zork 1, fino praticamente al MAME, che emula i coin-op Neo Geo dei primi anni 90 con i videogame da sala giochi. Domanda che riporta un attimo alle questioni di inizio puntata. È legale scaricarsi le ROM di questi videogiochi oppure no? La maggior parte delle ROM ovviamente sono ancora protette da diritto d'autore. Quindi bisogna avere i giochi originali, questo è molto importante. Anche perché alcuni di questi emulatori che sono dentro RetroPie hanno bisogno di alcune firmware originali. E questi si ottengono soltanto prendendoli dalle console o dagli computer originali. Per esempio la Mattel Intellivision, che è stata una console piuttosto complessa, l'emulatore che si trova dentro RetroPie non è pronto per poter funzionare, ma è necessario praticamente procurarsi due ROM, due file binari che si trovano sotto licenza e vanno acquistati. Per cui se poi uno ha la cartuccia originale, per esempio di Astro Smash, può scaricare la ROM, ma comunque lo può fare solo perché ha il gioco originale. Scaricare i binari, i firmware per alcune di queste console, significa comunque fare un acquisto. Per esempio per l'Intellivision, ma anche per altre console, esistono degli emulatori a pagamento. Ce n'era per esempio uno per l'Xbox 360, un altro per la PlayStation 2. Sui CD di questo software, di questi emulatori per qualche piattaforma, ci sono i firmware, ci sono alcuni binari, quelli possono essere riportati. L'importante è avere però acquistato o i giochi originali o le piattaforme originali. Esistono lo sappiamo tutti in rete, dei siti che raccolgono migliaia di ROM, ma nella maggior parte dei casi questi siti sono illegali. Vabbè, è esattamente come quando scarichi la ROM del gioco del Nintendo DS piuttosto che il videogioco per PC alla fin fine. Pensavo che dopo un tot di anni anche per i videogame passava la cosa, diventa un abandonware, che poi in effetti è una roba che non esiste e quindi lo puoi scaricare gratis. Sarebbe carino da parte dei produttori se ti dicessero: guarda, io te li metto da scaricare tutti, ti abboni piuttosto che mi dai un tot e te li scarichi tutti. Sarebbe molto interessante. Sì, lo scenario lì è un pochino complicato, perché dovete considerare una cosa: molti giochi dell'epoca sono stati prodotti da aziende che oggi non esistono più. Di fatto i diritti d'autore non vanno a nessuno. Molti erano sviluppatori indipendenti, alcune, ripeto, sono aziende che nel frattempo sono sparite. Solo che, diciamo, andare comunque a prenderli e a scaricarli è un'azione che si fa poi a proprio rischio e pericolo, secondo la propria responsabilità. Purtroppo molti di queste licenze alla lunga possono essere acquisite, perché vengono riproposte su piattaforme mobile. Ci sono molti giochi dell'epoca che oggi si ritrovano facilmente a funzionare su uno smartphone Android piuttosto che su un iPhone, per cui le licenze in qualche modo si rinnovano. Esistono dei giochi di cui ormai, diciamo, gli ideatori non ci sono più, che non verranno mai, nessuno vi verrà a chiedere poi un chip per alcuni titoli, ma molti di questi in realtà ve li trovate anche disponibili online. C'è un progetto di archive.org bellissimo che si chiama Internet Arcade, lo trovate su archive.org proprio / Internet Arcade, se non ricordo male, che vi mette a disposizione online, quindi girano nel browser moltissimi giochi e lo si può giocare gratuitamente. Si va da Prince of Persia fino a Outrun, che era sia per quel gioco della macchina della Ferrari, se vi ricordate. Me lo ricordo, ci ho giocato tantissimo a Outrun. Io ci ho speso tantissimo. Dicevi, scusa, Giuliano? No, dicevo, io ci ho speso tantissimo, più che altro. Ma guarda, io in effetti quel sito di Archive l'ho visto e ci ho perso parecchio parecchio tempo, però mi sono chiesto: ma loro li hanno messi, ma è legale comunque giocarci? Sì, loro fanno parte di un progetto proprio per la memoria storica in qualche modo, per cui tra l'altro è un'organizzazione anche abbastanza importante. Sono stati ceduti nella maggior parte dei casi i diritti e le licenze per l'utilizzo di questi giochi. Giocare ovviamente è gratuito, però prendere quelle ROM, portarsele a casa, magari costruirci anche un business sopra, è assolutamente illegale. Ah, perfetto, quindi vale comunque il fatto che se giochi lì loro hanno pagato i diritti perché tu possa giocarci, di più no. Esattamente. Ho capito. Insomma, il fatto è che se purtroppo tu non hai il tal videogioco, la legge ti dice che non ci puoi giocare neanche se hai RetroPie. Sì, poi c'è una lista di giochi gratuiti che si possono prendere. Ovviamente tra questi spesso non ci sono i best seller. Ovviamente. Io cerco di comprare quelle piattaforme di cui vi parlavo prima, per esempio l'Atari Flashback, l'Intellivision Flashback, perché in qualche modo acquisisco anche la licenza per utilizzare quei giochi lì, e poi onestamente alla fine, rispetto a librerie che ho visto di migliaia di titoli che uno in tutta la sua vita non riuscirà nemmeno mai a vedere, poi la cosa divertente è andare a recuperare quei 10-15 titoli a cui uno è affezionato diciamo dall'infanzia, no? Poi in qualche modo quelli si possono recuperare. Esistono però dei pacchetti in acquisto, per cui girando su internet qualcosa si può trovare. Bene, bene, bene. Quindi abbiamo capito che se gli ascoltatori sono vecchietti come noi, possono tornare a usare i videogiochi di quando loro erano piccoli abbastanza facilmente, perché mettere una ISO su una SD è veramente veramente rapido. Sì, è molto semplice. Poi il Raspberry in realtà si presta a fare anche qualcosa in più, nel senso che spesso il Raspberry diventa la scheda sostitutiva di molte console, di molti home computer. Esistono progetti, tra l'altro anche molto ben fatti, in cui si toglie l'elettronica originale e si inserisce un Raspberry Pi. In questo caso non si mette una distro tipo RetroPie all'interno, ma sul Raspbian si mette esclusivamente l'emulatore, si scrive uno script o qualcosa che faccia da launcher, per cui è possibile simulare all'accensione del Raspberry Pi esattamente la stessa esperienza dell'accensione di un Commodore 64 o di un'Amiga. I progetti per esempio per l'Amiga sono gettonatissimi, però in quel caso parliamo di emulatori di un'unica piattaforma all'interno del case originale. Esistono tra l'altro anche le persone di RetroPie lo fanno, dei componenti che permettono per esempio di interfacciare dei moderni joystick piuttosto che joystick arcade. C'è esattamente della famiglia RetroPie un componente che si chiama RetroPie GPIO Adapter, o un altro che si chiama Control Block RetroPie Control Block, che permette di ricostruire intorno al RetroPie esattamente i controller dei Conop degli anni 80, per cui saltando due fili e attraverso uno script banalissimo è possibile prendere i segnali che arrivano dai joystick piuttosto che da altro tipo controller. Uno si costruisce a casa una piattaforma vera e propria. In molti Conop che ho visto, quelli grandi, quegli armadioni grandi, all'interno sono stati totalmente svuotati, ci hanno messo una lastra LCD, un monitor LCD normalissimo HDMI e un Raspberry, e poi bellissimo, hanno collegato joystick e pulsanti. Bellissimo. È il futuro delle sale giochi dei vecchietti, insomma. Sì, io avessi spazio in casa, non vi nascondo che vorrei prendere un coin-op degli anni 80, magari uno con un paio di joystick e molti tasti, e fare un progetto del genere. È più facile in realtà farsi che a dirsi, perché con un Raspberry Pi oggi alle librerie che ci sono a disposizione si fa facilmente. Mi manca lo spazio, magari vediamo nel prossimo futuro. No, il fatto è che oltre allo spazio magari manca il fatto di trovare il pezzo di legno, oppure c'è anche mercato di queste cose. Sì, c'è mercato, e magari è anche facile girare per la propria città su qualche vecchio bar, qualche vecchio sala giochi, qualche vecchio distributore. E a meno dei flipper che hanno un valore della Madonna appunto, portarsi dietro un coin op che sono grandi, ingombranti, soprattutto quelli in legno oggi avrebbero bisogno anche di essere restaurati, diventa complicato. È ovvio, non parliamo del coin op di Joust o di altri titoli storici, parliamo di coin op quelli multipurpose, no? Quelli in cui si cambiava la scheda, che potevano ospitare di tutto e di più. Però si può portare a casa anche con poco. Addirittura mi è capitato di rivenditori che, pur di toglierseli, li regalavano. Ebbene, non sarebbe male così, eh? Sì, non sarebbe male, a patto di avere tempo e spazio. Ma insomma, se qualcuno ha la possibilità di prenderne uno, fa sicuramente un grande affare. Lo può riconvertire facilmente, diventano tra l'altro molto leggeri, facilmente trasportabili, ci sono progetti che ho visto in cui sono letteralmente mobili, e uno si fa una propria postazione di retro gaming, magari con l'emulatore di MAME, è molto divertente. Insomma, il videogioco non è solo Steam e non è solo Xbox o PlayStation. Per noi, diciamo, della nostra generazione, direi di sì. Io non ho tempo per giocare più, per cui se lo faccio, lo faccio con mio figlio, con i giochi di mio figlio, però una puntatina ogni tanto, una domenica, a riaccendere un Commodore 64 è molto divertente, per cui lo faccio volentieri. Bene, bene, direi che abbiamo affrontato parecchio della scaletta che ci hai preparato, sei stato precisissimo, e da come ce l'hai raccontato sei davvero molto molto informato. Giuliano, tu hai qualche domanda specifica? Così cerchiamo di mettere in difficoltà il nostro ospite, che se no è troppo facile. Ma no, diciamo che adesso ho un po' la lacrimuccia, la nostalgia, devo dire la verità, di certe cose. E mi sono venuti in mente il fatto che effettivamente l'esperienza che si faceva con Pong dell'epoca era estasi, perché non c'era mica altro al confronto. Io mi ricordo che quando avevo il Pong comprato su Euronova, devo essere sincero, quando poi vedevo in televisione pubblicità tipo l'Intellivision, ce n'era uno in particolare che mi è rimasto sempre impresso, che si chiamava Spectre, che era una cosa, credo, vettoriale, una cosa del genere, e sbavavo parecchio. Il fatto che adesso con poca spesa si possa tornare indietro un pochino a rigiocare è sicuramente una bella cosa. Tra l'altro anche io ho visto migliaia di ROM di videogiochi, tra l'altro anche molto simili tra loro, se non identici, che credo fossero delle imitazioni uno dell'altro, per cui certe volte il pacchetto da migliaia di ROM non ha questo grande impatto, almeno su di me, che comunque sono stato traviato da qualcosa tipo Outrun o Girus o Galaga di quei tempi lì. Una cosa invece carina che ho visto è che oltre a fare i case per il RetroPie, che è a forma di console, fanno anche i case a forma di coin-op piccoli da banco con due pulsanti e un joystick e il l'LCD, insomma, cosa sarà, da 7 pollici forse, adesso non so esattamente i costi, però è una cosa carina, insomma. Sì, no, c'è un mercato oggi che è diventato ricchissimo. Beh, mi è fatto venire in mente una cosa. Io sono stato fortunato possessore di un Mattel Intellivision, che era il concorrente diretto dell'Atari 2006. Era per, diciamo, i più fortunati, diciamo, che avevano il Mattel Intellivision. Io ricordo che ricevevo dai miei genitori una cartuccia all'anno alla fine della scuola, a patto che io mi fossi comportato bene. E ricordo benissimo che quella cartuccia lì costava, nei primi anni 80, 100.000 lire, che era una quantità di soldi incredibile. E io con quel gioco lì poi ci giocavo un anno. È proprio totalmente diversa la filosofia. Beh, ora il fatto che... Dunque, i videogiochi continuano a costare cari, perché comunque un videogioco nuovo per una console ora... Cosa fa? Una 50-60 euro. Però la longevità è molto più bassa. Poi io non sono un esperto di videogiochi, io sono uno di quelli che se non è facile mi rompo le scatole e non ci gioco più. Non sono così costante. Però il fatto che uno compri un videogioco per giocarci per 7-8 mesi ora non è un concetto che è vivo nei ragazzini. Loro lo comprano 3 settimane, lo hanno finito e vogliono quello lì successivo. Sì, è un'altra filosofia, un'altra generazione, ma va bene così. Alla fine oggi chi è nativo digitale ha i suoi problemi da nativo digitale, ma qui ci vorrebbe un'altra puntata, però è molto più fortunato perché il livello di qualità generale è sicuramente migliorato. Beh, all'epoca erano gli inizi e la tecnologia era un po' quella che era. Io penso che le prime console a livello tecnologico siano state niente altro che delle magie, perché in effetti con quello che si conosceva di elettronica, avere una console, cioè il riuscire a progettarla era una gran cosa. Sì, facevano delle magie. Vi dico soltanto un paio di alternative a RetroPie, perché sì, comunque RetroPie è effettivamente oggi la distribuzione più famosa, più supportata, ma per esempio c'è Camaleon, che è un'altra distribuzione molto simile a RetroPie, c'è l'H, scritto con 2K, LHKK, c'è Recalbox, che è un'altra distribuzione. È ovvio che poi uno può scegliere la distribuzione che gli piace, ma RetroPie al momento, secondo me, quella più facile da utilizzare. E c'è anche da dire che esistono delle alternative a RetroPie, a Raspberry Pi, scusate, come hardware. Ci sono degli hardware che hanno costano un pochino di euro in più, ma che sono molto più spinti, che riescono a far girare tranquillamente anche giochi della PlayStation 1, della PlayStation 2. Mi ricordo uno tra tutti, uno che si chiama Odroid, che credo sia proprio tedesco come piattaforma, che è un single board computer abbastanza spinto, dedicato proprio al retro gaming. E sì, è un concorrente di Raspberry, che condivide lo stesso GPIO, ma l'hardware è molto più performante e si può mettere anche sopra una distribuzione di Android. Esatto. Quindi se uno vuole fare qualcosina in più, ha magari un po' più di esperienza con Linux o con Android, ci sono delle piattaforme un pochino diverse. Sì, costa leggermente di più, ma è tutto in performance. Bene, direi che a questo punto abbiamo sviscerato tutto. Tu, Alessandro, hai da dire qualche cosa per concludere? No, io ho parlato anche troppo. Noi ti abbiamo ascoltato con vivo interesse e siamo tornati bambini tutti quanti insieme. Giuliano, tu hai ancora qualche cosa da chiedere o da commentare? No, io sto piangendo per la mia carta di credito già da adesso, ma sono abituato. Beh, basta che la nascondi e sei a posto, no? No, perché ho il numero memorizzato, quindi non c'è problema. Ah, fantastico. bene, allora buone spese, buoni acquisti. Allora io direi di chiudere questa interessante puntata sul retro gaming. Se qualcuno degli ascoltatori lo usa, gioca, ha qualche commento, ovviamente sui nostri canali è sicuramente bene accetto. Ve li ricordo, ci trovate praticamente un po' in tutto in quello che è il mondo social, quindi siamo su Twitter, abbiamo una casella di posta, c'è il nostro sito gcookies.github.io dove trovate tutti gli indirizzi e i contatti, siamo su Facebook, siamo su Google+, siamo su iTunes, se usate iTunes lasciateci delle recensioni, siamo tutti contenti, se sono di 5 stelline siamo ancora più contenti. Abbiamo attivato da qualche mese a questa parte una specie di forum di discussione su GitHub, nel senso che cerchiamo di raggruppare tutto quello che è il contatto da parte di voi ascoltatori in un unico posto, perché siamo in due e gestire tutta la parte di comunicazione su tutte le piattaforme a volte ci perdiamo. GitHub lo usiamo come se fosse un forum, se avete qualche domanda, qualche dubbio, se volete proporci qualche cosa, noi lì siamo abbastanza presenti. Vi ricordo che se mettiamo qualche link, è un link di Amazon con l'affiliate, quindi se comprate tramite quel link a noi arrivano un po' di soldi, anche se entrate su quel link e vi comprate qualche cos'altro, a noi arriva comunque una percentuale e a voi non si ricarica niente. Quindi se volete comprarvi la nuova Toyota e entrate dal link di Amazon, noi siamo molto molto contenti. I crediti della sigla sono sul sito della canzone dei Forno Fornic, Sed Robot. Vi ricordo che io ho un altro podcast sempre di tecnologia che si chiama Pillole di Bit, mi faccio un po' di pubblicità, sono puntate molto molto brevi e in cui parlo di un singolo argomento per ogni volta. Sono arrivato alla puntata 16-17, se non l'avete mai ascoltato e volete ascoltarlo, è www.pilloledibit con il punto prima dell'it. A questo punto direi che ringraziamo gli ospiti, ringraziamo moltissimo Alessandro che ci ha parlato di retro gaming. Alessandro, vuoi lasciare i tuoi contatti, come ti possono trovare gli ascoltatori, se ovviamente se ce li vuoi lasciare? Ma io ho un blog che tra l'altro è aperto a tutti coloro che vogliono scrivere qualcosa, che raccoglie un po' di questioni nerd, un po' di hobby, un po' di passioni. C'è anche una guida su RetroPie abbastanza completa, totalmente in italiano, e il sito è ccworld.it. E quindi se qualcuno vuole contattarmi o lasciarmi qualche commento può passare da lì. Molto bene, grazie. Giuliano, i tuoi contatti? I miei contatti sono più o meno quelli soliti, e cioè sicuramente un contatto su Twitter è quello che preferisco, e lì mi trovate come ccxx72. Molto molto bene. Allora, vi ringrazio ancora per aver partecipato a questa puntata del podcast. Ringrazio gli ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata. Da Francesco da Torino un saluto. Ciao, grazie da Alessandro. E ciao a tutti da Giuliano. Grazie e alla prossima.